1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi e per voi e vi ricordo i temi che affronteremo più tardi. Intanto alle 8:45 avremo ospite il magistrato Raffaele Cantone, che in pratica da ieri si è insediato come presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ci spiegherà cosa si può fare su questo tema molto molto delicato in Italia. Parleremo invece di un tema, ieri mi ha molto colpito sui giornali quando si raccontava che anche a Bergamo sono spuntate alcune panchine anti-barboni, anti-clochard come volete definirli, e non è il primo caso di amministrazione comunale che contrasta in questo modo i senza tetto. È successo a Bergamo, appunto. Avremo con noi l'assessore alla sicurezza del comune di Bergamo, avremo anche il sindaco di un paese in provincia di Macerata dove addirittura sequestrano le elemosine raccolte dai questuanti per la strada, insomma un modo per cercare di stroncare così questi fenomeni. Con noi avremo anche Francesca Barra, che è una giornalista e scrittrice, ha scritto un libro proprio dopo aver vissuto un mese a contatto con i senza tetto. Ne parleremo alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. Eccoci qua in questo martedì 29 aprile, intanto i titoli. Le aperture sono diversificate, oggi il Sole 24 Ore apre sul bonus degli 80 euro, il bonus arriva a maggio, pronte le regole del fisco, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Corriere della Sera il rapporto dell'Unione Europea che dà lo spunto per il titolo di prima pagina, la burocrazia frena l'Italia. Per il Messaggero, pronta la riforma degli statali, anche su questo tema apre il Secolo XIX, statali, il piano di Renzi. Mentre Berlusconi, che ieri ha fatto una lunga intervista a Piazza Pulita, è il titolo di apertura di Repubblica, Berlusconi Show, attacco a Napolitano, doveva graziarmi. Per la Stampa invece, Merkel contro Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi, a lui la grazia, l'ha fatta il cardinale Scola. Questa è una notizia che c'è solo sul Fatto Quotidiano. Sarebbe stato, secondo il Fatto, nonostante in curia di Milano neghino, il cardinale, arcivescovo di Milano Scola, a indicare la struttura dove Berlusconi farà i servizi sociali. Napolitano e Renzi, le verità di Berlusconi, così titola in prima pagina il giornale, mentre l'Unità, l'Europa, rottama Berlusconi. Su Libero invece continua i racconti iniziati qualche giorno fa sotto la dicitura perseguitati dalla finanza, dopo la testimonianza di un maresciallo della Guardia di Finanza che dice così perseguitiamo le aziende, è partita una campagna di Libero, oggi il titolo è così abbiamo pagato il pizzo allo Stato. Ancora testimonianze di aziende vessate dalla Guardia di Finanza. Voglio partire però da una notizia di cronaca che è su tutti i giornali, vale a dire la evasione, e non è la prima volta, è la seconda evasione nella sua vita di Filippo De Cristofaro. Forse il nome dirà qualcosa a qualcuno. Fu conosciuto nel 1988 come il killer del catamarano insieme a una olandese, allora minorenne di 17 anni, in pratica la compagna o la ragazzina che si era innamorata di lui, insegnante di ballo, uccisero Annarita Curina e rubarono il suo catamarano con l'obiettivo folle di andare a vivere dall'altra parte del mondo e vivere facendo la vita alla grande. Furono arrestati. Il killer del catamarano Filippo De Cristofaro è evaso l'altro giorno per dopo un permesso premio, un permesso di 3 giorni che gli è stato concesso, era considerato infatti giudicato affidabile, come racconta il Corriere della Sera pagina 15, e non è la prima volta non è la prima volta che è evaso, era già successo in passato. Allora il titolo, una pagina, è il killer del catamarano evade di nuovo, polemica sul permesso per Pasqua. Quando succedono queste vicende di cronaca giudiziaria ogni volta vanno sotto accusa anche i permessi, le leggi considerate da molti troppo morbide per il reinserimento dei carcerati. Lo avevano giudicato affidabile, racconta Marco Gasperetti, tanto da concedergli premi e permessi a dicembre, poche ore, con l'obbligo di rientrare in carcere. Poi a Pasqua il premio per la buona condotta si era trasformato in una 3 giorni da trascorrere nei locali dell'associazione di volontari Dialogo di Portoferraio. Ma Filippo De Cristofaro, 60 anni, l'istruttore di danza condannato all'ergastolo per aver massacrato nell'88 a colpi di macete la skipper Anna Rita Curina per rubarle il catamarano e fuggire con una minorenne olandese di cui era innamorato, per lui ecco il recupero sociale non doveva essere un'utopia. Lui era già evaso dal carcere di Opera nel 2007, ma i regolamenti non impediscono, dopo 7 anni, di bloccare i benefici della legge Gozzini. E così è uscito dal carcere e al terzo giorno di permesso ha scelto di tornare killer in fuga. Ed è attualmente ancora un killer in fuga, ovviamente lo stanno cercando da qualche giorno. Ci sono i racconti come quello di Goffredo Buccini, che racconta sotto il titolo Quel ballerino allucinato che uccise col macete, e l'urlo di Diana in Olanda, Ho ancora paura di lui. Buccini e il Corriere della Sera sono riusciti a raggiungere la allora quindicenne Diana Beyer, che tra l'altro, racconta il Corriere, diede la prima coltellata alla vittima e che ora si è rifatta una vita in Olanda, 3 figli, sposata, ad Utrecht vive, e dice: quello là mi fa ancora paura, molta paura, non voglio vederlo, non lo vedo da 26 anni, ma solo l'idea che sbuchi da qualche parte mi fa rabbrividire. E tutti i giornali raccontano, il Messaggero dedica una pagina anche a questo tema, nuova fuga, caccia al killer del catamarano, e ovviamente le polemiche con l'allarme anche della polizia penitenziaria che dice ci vuole il braccialetto elettronico. Sta di fatto che, ripeto, quando accadono di tanto in tanto vicende di carcerati che in permesso premio poi evadono, ci va di mezzo anche tutto il sistema giudiziario, che viene subito preso di mira e criticato. Preso di mira, c'è una persona che è stata presa di mira in questi giorni nel mondo della Chiesa e che ha voluto reagire, è il Cardinal Bertone. Ricordate, proprio qui a questi microfoni abbiamo parlato del superattico da 700 metri quadri in cui vivrà l'ex segretario di Stato del Vaticano, il quale però si è arrabbiato, ha preso carta e penna. Ha scritto a 2 settimanali diocesani di diocesi dove è stato vescovo in passato per dire la sua verità. E ovviamente la notizia finisce sui giornali, perché come si è difeso il Cardinal Bertone? Ecco qui, titolo di Repubblica, mega attico, Bertone si difende, Papa Francesco è informato, la ristrutturazione a mie spese. Intanto non definisce un superattico, ma un appartamento spazioso. Questa è la definizione del Cardinal Bertone, che dice l'informatore, cioè colui che ha dato questa notizia ai giornali, ha addirittura raddoppiato la metratura. Dunque il Cardinal Bertone dice sono solo 350 i metri quadri e non 700. È stato detto, scrive ancora il Cardinal Bertone, che il Papa si sarebbe infuriato con me per tanta opulenza. Addirittura è stato messo a confronto lo spazio del mio appartamento con la presunta ristrettezza della residenza del Papa. Sono grato e commosso per la telefonata affettuosa che ho ricevuto da Papa Francesco il 23 aprile scorso per dirmi la sua solidarietà e il suo disappunto per gli attacchi rivoltimi a proposito dell'appartamento, del quale era informato fin dal giorno in cui mi è stato attribuito. L'appartamento spazioso, come è normalmente delle residenze del Vaticano, e ristrutturato a mie spese, mi è concesso in uso e dopo di me ne usufruirà qualcun altro. E certo che questo dà lo spunto a tutti i giornali di dedicare chi una pagina, chi mezza pagina. Guardate anche qui il giornale L'ira di Bertone sul superattico. Basta gogna, il Papa è con me. Serena Sartini ne racconta a pagina 15. Dice il Papa, appunto, è solidale, e poi la ristrutturazione del mio carico, dopo di me verranno altri, e soprattutto non sono 700 metri quadri ma 350, ma insomma. A proposito di ristrettezze, questa è una notizia che, se confermata, a piccoli passi farà piacere a molti, a tutti quanti sono attenti a quelle che sono le spese della cosiddetta casta, perché il Messaggero è in grado di anticipare, come scrivono loro a pagina 9 con Diodato Pirone, alcuni tagli anche corposi che avverranno nelle istituzioni come Camera, Senato, Corte Costituzionale e Quirinale quest'anno, stretta da 28 milioni alla Camera agli stipendi del personale. Ormai pare deciso che, come ha chiesto peraltro il governo con Renzi, anche alla Camera si voglia mettere questo tetto da 240.000 euro, per tutti i dipendenti. Sapete che ci sono alcune posizioni apicali come il segretario generale di Camera e Senato che guadagnano fino a 400 e oltre più mila euro. Ebbene, il Messaggero racconta: niente prigionieri, questa volta i tagli odiatissimi agli odiatissimi superstipendi garantiti da Camera, Senato e Quirinale saranno pesanti, scatteranno a breve, probabilmente entro maggio. Il Messaggero è in grado di anticipare che, in base a un accordo informale col Tesoro, entro quest'anno la Camera taglierà 28 milioni di euro di spese, il Senato tra i 16 e i 17 milioni, la Corte Costituzionale 4 milioni, il Quirinale 1 milione di euro. Vi basta, cari cittadini? Beh, insomma, è già un buon inizio. A proposito di questo bonus da 240.000 euro, Michele Ainis oggi ne scrive l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera dal titolo Gli stipendi e il mercato. Si concentra proprio sugli attacchi che sono avvenuti a Renzi per cercare di mettere questo tetto da 240.000 euro. E tra l'altro racconta Michele Ainis: altri tempi. C'è stato un momento in cui nel 1985 Sandro Pertini rifiutò un aumento di 100 milioni di lire stabilito dall'allora governo Craxi. Altri tempi, altre tempre, scrive Michele Ainis. D'altronde, in tempi di vacche magre, nessuno accetta il pascolo di alcune vacche grasse. Semmai resta da chiedersi come sia potuto accadere, quale demone sindacale abbia permesso, per esempio, che il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica percepisse 460.000 euro, 10 volte rispetto al ministro della Difesa, che è il suo diretto superiore, il doppio rispetto al capo dello Stato, che ha il comando delle forze armate. Avevamo perso la misura insieme alla decenza. Ed ecco quindi questo tetto da 240.000 euro che ancora di recente il governo dice va messo, e forse arriverà anche a Camera e Senato, che, come sapete, l'abbiamo detto tante volte, hanno un'autonomia legislativa, dunque non si può imporre nulla al Parlamento, o se lo decidono da soli di mettere questo tetto oppure non si può farci nulla. Intanto andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle notizie della campagna elettorale. Beh, Berlusconi oggi certamente conquista la maggior parte delle prime pagine dei giornali. Alessandro Mela leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. No, vabbè, ma chi è questo genio assoluto da conoscere immediatamente? Un grande abbraccio ovviamente a questo ascoltatore e come dire, allora. Sicuramente il protagonista di questa giornata, sui giornali almeno, e conquista le prime pagine, è Silvio Berlusconi. Sono almeno tre i fronti: prima una lunga intervista ieri a Piazza Pulita in cui ha parlato un po' tutto campo, poi ci sono anche rispuntano proprio in questo momento le motivazioni anche delle intercettazioni sull'inchiesta Tarantini, le escort eccetera, e poi c'è tutta la polemica scoppiata, diciamo, 48 ore dopo sulle frasi sui lager e la reazione della Germania. Quindi vedete tre elementi per i quali Berlusconi è in prima pagina sui giornali. Intanto l'intervista di ieri, Berlusconi ha detto soprattutto e ha ribadito: Giorgio Napolitano avrebbe dovuto darmi la grazia, concedermi la grazia motu proprio, quindi senza che io la chiedessi. Su questo Repubblica titola, pagina 2, Berlusconi spara sul colle: concedermi la grazia è un dovere di Napolitano. C'è il retroscena di Francesco Bei e Umberto Rosso che raccontano come al Quirinale ci sia stata una reazione in qualche modo sarcastica che filtra del tipo: beh, a questo punto la grazia all'ex premier potrebbe anche autoconcedersela, attribuirsela da solo senza nemmeno il bisogno di rivolgersi al capo dello Stato, visto appunto che Berlusconi riduce semplicemente a un obbligo concedergli il perdono. Il ruolo di rivalutazione e intervento che spetta al Presidente della Repubblica nella delicata materia degli atti di clemenza, stravolgendo prassi e competenze, scambiandolo per un monarca assoluto, parole che tra l'altro lo stesso Berlusconi ieri ha citato. Racconta Repubblica in questo lungo articolo che continua a pagina 3 che anche il 2 aprile scorso, alla vigilia del pronunciamento del Tribunale sull'affidamento ai servizi sociali, l'ex cavaliere è salito al colle proprio a battere e insistere con Napolitano per la concessione spontanea del perdono. Un colloquio che si sarebbe trasformato così in un ring, con Berlusconi nei soliti panni del perseguitato della magistratura che chiede con il suo monologo, che chiude il suo monologo con una richiesta perentoria: per queste ragioni chiedo la concessione della grazia per motu proprio. Giorgio Napolitano a confermare il suo no. Ecco, questo sarebbe stato lo scontro anche lo scorso 2 aprile. Sta di fatto che la sentenza invece poi è diventata esecutiva. C'è la polemica perché l'ex procuratore capo di Firenze, Beniamino De Idda, che fa parte della corrente Magistratura Democratica, ieri in un articolo ha insistito, ha detto: l'ex premier meritava una condanna seria. Ha scritto De Idda: non mi voglio sostituire ai magistrati di Milano, ma in quest'articolo l'ex procuratore scrive: il tribunale ha sprecato l'occasione di affrontare il tema delle misure alternative applicate a un uomo ricco. E insomma, questo ha rinfocolato le polemiche su questa sentenza ai servizi sociali, tra l'altro sulla quale c'è una notizia che oggi viene pubblicata dal Fatto Quotidiano a pagina 3. Gianni Barbacetto racconta che un ruolo decisivo per la scelta della struttura Cesano Boscone è stato quello dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Scola. Silvio a Cesano Boscone l'ha deciso il cardinale Scola. Questo è il titolo a pagina 3, nonostante, scriva Barbacetto, tutti neghino in curia. Secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, il cardinale Scola è stato consultato ed è intervenuto personalmente per determinare il luogo dove Berlusconi andrà a svolgere la sua attività di giustizia riparativa. È stato dunque Scola e non il Tribunale di Sorveglianza né l'Ufficio Esecuzione Pena Esterna a indicare la struttura dove Berlusconi passerà 4 ore alla settimana nelle 10 mesi e mezzo in cui sconterà la sua pena per frode fiscale. Questo almeno scrive il Fatto Quotidiano a pagina 3. L'altra vicenda per la quale Berlusconi è sulle prime pagine è la questione della Germania, le polemiche, il gelo di Angela Merkel, premier cancelliera tedesca. L'accusa invece di Jean-Claude Juncker, che dice deve scusarsi, sono disgustato dalle frasi sui lager, e un Berlusconi che non arretra, non si scusa e anzi racconta in un'interessante retroscena Ugo Magri a pagina 3 della Stampa: il cavaliere non arretra e sprizza entusiasmo. Sentite qui Ugo Magri: più monta l'ira tedesca, e come se monta, più Berlusconi sprizza soddisfazione. In queste ore lo raccontano felice che si torni prepotentemente a parlare di lui dopo mesi trascorsi nel cono d'ombra mediatico. L'indignazione, ma l'indignazione di chi? Berlusconi sa intercettare certi umori, purtroppo presenti nell'italiano medio, non proprio di simpatia per la Germania e per la Merkel. Hai voglia a obiettare che la battuta sui campi di concentramento è non solo falsa, ma bestialmente rozza. perché il tema complesso della rimozione dei sensi di colpa non può essere brutalizzato con argomenti da bar sport. Berlusconi risponderebbe alzando le spalle. A lui interessa solo prendere voti, del resto si occuperanno gli storici. Così Ugo Magri e infatti subito i sondaggisti, ecco qua, a fare i calcoli. Secondo la pitonessa, si descrive così Ugo Magri, Daniela Santanchè, l'attacco alla Germania vale 2 punti. Secondo il sondaggista Roberto Weber dell'Istituto Sondaggi XE può valere fino a 4 punti gli attacchi alla Germania, fino a 4 punti. E quindi si va avanti così. La terza notizia invece è che sono ritornate le intercettazioni, o meglio, le motivazioni della sentenza del giudice per udienza preliminare che ha condannato l'avvocato Castellaneta per il giro di ragazze messo su con l'imprenditore Tarantini per allietare le serate ad Arcore. Questa è l'accusa da Bari. Parla di vita privata sconcertante, il ritorno delle escort, donne oggetto, situazioni scabrose. Ci sono anche tanto di intercettazioni, tipo quella su Grazia Capone, che era entrata, secondo il Fatto Quotidiano, racconta Antonio Massari a pagina 2, nel giro appunto di Arcore. Ma tromba? Chiede Giampiero Tarantini all'avvocato Castellaneta. È certo, e Tarantini, ma si può collaudare? Me la posso trombare prima io, oggi pomeriggio? E vabbè, oggi, dai, trombatela domani sera, la risposta dell'avvocato. Vabbè, insomma, il clima è questo qua. A proposito di trombare, no, trombati, Mauro Meazza, questa proprio. Buongiorno Alessandro, eviterei qualsiasi commento a questo. No, ma della politica, nel senso, anche tu sei un trombato della politica, piazzato al Sole 24 Ore, si sa. Sì, non vorrei che, andassimo direttamente nel penale con queste cose. Sai che il mio avvocato ha già un corposo e nutrito dossier sulla tua persona. Vabbè, ma sai che trombati vuol dire, insomma, tra virgolette, ma no? Perché non abbandoniamo questa deriva che abbiamo preso, che non ci fa proprio onore, non ci fa così. Onore, dici, va bene, allora andiamo sugli argomenti più seri. Invece io voglio portare serenità, hai visto che è uscita la circolare sul bonus da 80 euro? Assolutamente sì. Ecco, allora, innanzitutto è importante sapere che le spiegazioni sul Sole 24 Ore, il testo sul sito www.ilsole24ore.com, sai che abbiamo anche un sito mobile, come si dice, scusa l'anglismo, ecco, che è molto, che è particolarmente versatile, quindi si può prendere visione direttamente da circolare, ma se proprio uno così alle 8 del mattino non avesse voglia di leggere la circolare, le entrate, pagina 3, ci sono Pizzin e Maccarone che spiegano un po' il funzionamento di questi 80 euro. Tra l'altro, su questo, una buona lettura. Certo. Su questo, Mauro, scusami, oggi per esempio c'è scritto, aggiungo tutti i dettagli sul Sole, Libero scrive anche che arriveranno ai sacerdoti. Non so perché si sono accaniti dicendo arriveranno anche ai sacerdoti questi 80 euro. In realtà i sacerdoti sono dei percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, quindi come tali vengono citati. Certo. Anche però i percettori di borse di studio, ad esempio, non so quale può essere il motivo per non cui... lo so, il titolo è L'obolo di Renzi va pure ai sacerdoti. Questo... va bene, però in realtà l'ha detto il testo unico di imposte sui redditi, ma adesso non vorremmo perderci in questi dettagli, appunto, così presto la mattina mentre si discute del TUIR, come si dice in gergo. Mi sembra un pochino coraggioso. Hai visto invece questo possibile scorporo di Alfa Romeo da Fiat? Sì. Forse, ecco, questa è una cosa interessante che riferiamo sia in prima pagina che anche in finanza, e con i progetti che potrebbero star dietro a questo utilizzo, insomma, le macchine, le vetture che potrebbero arrivare. Ci torniamo tra un paio di minuti, perché ti voglio ancora dire che oggi con il Sole 24 Ore c'è il dizionario, il settimo dizionario della vita pratica. Questa volta parliamo di separazioni, divorzi, nuove famiglie, cambiamenti del codice civile per quanto riguarda i figli, quindi tutto sempre spiegato con i vari casi risolti. E poi parliamo sul Sole 24 Ore di esodati, che sono un'altra categoria, ohimè, di recente invenzione. Siamo più o meno a metà del sostegno erogato agli esodati, che appunto sono quelli che si sono ritrovati senza lavoro e senza pensione. Se ho un minuto, ti vorrei dire che c'è il bonus, riparte dal 6 maggio il bonus per le auto ecologiche, cioè ci fanno degli sconti. Lo riferiamo sul Sole 24 Ore di oggi, nelle pagine di Norme e Tributi, e lo spieghiamo anche poi sul nostro sito nella parte motori 24. Quindi questi sconti sono contenuti in un provvedimento che ha la gestazione della Corte dei Conti e che tra pochissimi giorni diventerà operativo. Quindi tutto questo mi sembrava un ottimo viatico. Io vorrei augurare una buona lettura della circolare sul bonus IRPEF al nostro direttore del personale. Ah, sicuramente, che salutiamo, mi ringinocchio perché sono stato una settimana in fede, ma butto dei ceci e mi butto lì. Esatto, ricordati di passare a ritirare i ceci, la fornitura di ceci poi all'ufficio personale. Li chiedo a Maria Piera Ceci. Vabbè, insomma, basta. Va bene, e con questo naturalmente legandoci le auto ecologiche, che possiamo dire di più, solo una parola. Esatto. Traffico. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione. Grazie. Allora, dicevamo, per concludere il discorso politico, oggi Renzi, visto che ne parlavamo ieri con ospite anche il senatore Vannino Chiti, colui che ha presentato il testo più in alternativa a quello di governo per la riforma del Senato, Renzi incontrerà appunto i senatori del PD per cercare un accordo sul testo del Senato. E c'è un'intervista a questo proposito al ministro Maria Elena Boschi, il ministro per le riforme, sul Corriere della Sera, la trovate intervistata da Monica Guerzoni a pagina 5. Dice il ministro: siamo a un passo da un risultato storico. Nessuno ha detto che il testo sia blindato, ma chi siede in Senato, come in Francia o in Germania, deve essere espressione dei territori e dunque sindaco o consigliere regionale. Alla domanda quanto lavoreranno i senatori, tanto, ma nella loro regione, risponde il ministro Boschi. Non staranno 5 giorni alla settimana a Roma, ma 1 giorno o 2. Non voglio mettere un limite, però non siederanno a Palazzo Madama a tempo pieno perché hanno il loro lavoro sul territorio. Non è un dopolavoro, come dice Berlusconi, ma no, anche Forza Italia condivide il fatto che il Senato non abbia le stesse competenze della Camera. E chiude l'intervista proprio con un riferimento a Vannino Chiti, dicendo di lui: non ho mai chiesto di ritirare il testo alternativo. Ma il traguardo è a portata di mano, tutti abbiamo fatto uno sforzo dentro e fuori dal PD, e rovinare tutto adesso per esigenze personalistiche sarebbe un errore. Tanto che il titolo dell'intervista è: rispetteremo il patto con Forza Italia, il testo di Chiti, no ai personalismi. Così il ministro Boschi, stiamo a vedere come andrà. Voglio andare velocemente a qualche notizia di cronaca. La prima riguarda il mondo della droga. Cambiano le regole, come raccontano vari quotidiani. Il Manifesto, Avvenire, La Stampa dedicano una pagina a questo tema. Droga si cambia, niente carcere per il piccolo spaccio. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 6 della Stampa. È una legge che nasce dal recepimento di una sentenza dopo che aveva in parte modificato la Fini-Giovanardi. Oggi il voto di fiducia cambia, come scrive la Stampa, pagina 6, la legge sulla droga. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha cassato la Fini-Giovanardi, il governo è dovuto correre ai ripari. Nel decreto previste sanzioni amministrative più lievi per chi consuma droghe leggere. Ovviamente ci sono i pareri favorevoli, i contrari. Avvenire, per esempio, raccoglie l'allarme di Giovanni Serpelloni, che ha diretto il Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio fino all'arrivo dell'attuale governo. E Giovanni Serpelloni dice: ci sono piante modificate che oggi creano più dipendenza. E c'è anche l'appello di Alfredo Mantovano, che è stato sottosegretario all'interno, che dice: questo disegno di legge non va perché così crescerà lo spaccio. Ci sono invece altre critiche, ma anche punti di fiducia. Sul Manifesto il titolo è a pagina 5: la fiducia, riduzione del danno. Anche se si racconta sul Manifesto, nell'articolo di Eleonora Martini, che dopo l'approvazione alla Camera è già pronta una battaglia su questo tema al Senato. Mentre mi incuriosisce di questi giorni e di questi tempi, quando ci sono i ponti, le vacanze, le ferie, le festività, c'è sempre questa polemica che spunta. Il giornale fa una pagina dedicata a questo tema. Antonio Signorini, a pagina 6, Italia ferma 20 giorni tra festività e ponti, bruciati 15 miliardi. Da noi si allungano i fine settimana, all'estero invece le pause vengono spostate al lunedì, da Pasqua al prossimo weekend, racconta il giornale, passando per la festa della liberazione il 25 aprile, passando per il ponte del 1° maggio, insomma il paese di fatto ha chiuso per ferie, le scuole chiuse, perso un punto di PIL, così titola il giornale. Si ricordano anche alcune frasi, per esempio Giulio Tremonti, quando disse bisogna accorpare le festività civili alla domenica, era l'11 agosto 2011, o ancora anche Berlusconi nell'allora 2004, va a rispolverare questa intervista il giornale, ricollocare le festività a ridosso del weekend per eliminare i ponti. Insomma, cari italiani, vi volete godere il ponte, razza di debosciati, oppure volete lavorare e far produrre e far aumentare il PIL? È un po' quello che vi dico io, ma scherzosamente, quando vi dico debosciati, che non siete altro. C'è da produrre, c'è da andare, c'è da fare, c'è da lavorare. Mentre una citazione prima del premio finale, come di consueto do alla carta costa, la citazione è a questa immagine che proviene dal mondo del calcio, dove durante la partita Villarreal-Barcellona un idiota, uno stupido ha lanciato una banana all'indirizzo del giocatore Dani Alves del Barcellona, che cosa ha fatto? Prende la banana e se l'è mangiata. E questo ha dato il via a una campagna mondiale di lotta al razzismo della serie Ridicolizziamo i razzisti, no? Un gesto imitato in tutto il mondo, vabbè, anche il Presidente del Consiglio, anche il CT della Nazionale Prandelli, ma in tutto il mondo davvero sono già esplose le foto, anche Balotelli, molti calciatori che mangiano la banana imitando quello che ha fatto in maniera intelligentissima il giocatore del Barcellona. Vabbè, siamo al momento conclusivo, la carta costa oggi va al giornale! Al giornale che è in testa alla classifica, stai per vincere il premio, direttore Sallusti. Manila Alfano racconta, pagina 21, rughe, amore, lavoro, le crisi di nervi delle quarantenni che pensano alle rughe, a non più, ma chi se ne frega, io quando leggo ste cose, guarda, mi vengono le rughe di tristezza. Andiamo al giornale radio, dai.